1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua, sono le 7:18 minuti, siete rientrati dal vostro ponte, ponticello, pontone, chi lo sa. Intanto voglio salutare, fatemi salutare Stefania che ci ascolta da Dubai e mi dice: sono 5 anni che sono qui e vi ascolto, ti ascolto, perché almeno così mi sembra che l'Italia sia un po' più vicina. Ebbene, evviva! Grande Stefania da Dubai, un grande abbraccio ovviamente a te. E siamo pronti, siamo qui a leggere i giornali anche per te, cara Stefania. Vediamo allora cos'è questo racconto dell'Italia attraverso i quotidiani. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 26 di aprile, i titoli intanto: il Sole 24 Ore apre sulle borse europee in calo con petrolio e banche, questo è il titolo di prima pagina, mentre c'è la Libia che torna in prima pagina per molti quotidiani, perché il Corriere della Sera titola: Libia, l'Italia offre 900 soldati. Per Repubblica: la Libia chiede aiuto all'ONU. Obama: migranti, basta muri. E anche per La Stampa: truppe italiane per proteggere l'ONU a Tripoli. Per Il Giornale: pronti alla guerra in Libia. Mentre Il Secolo XIX, Renzi: truppe per difendere l'ONU a Tripoli. E anche per Avvenire: stivali nella sabbia, missione in due fasi in Libia con 300 nostri soldati. Insomma, vedete che la Libia è in prima pagina perché ci chiedono aiuto. Chi sceglie invece di aprire in modo diverso è Il Fatto Quotidiano: così ingrassano Mediaset con spot e soldi pubblici. Questo è il titolo principale. Mentre Libero ha un'intervista a Marine Le Pen, e dunque immigrazione e Europa. Liberiamoci dall'Europa è il titolo di prima pagina. Partiamo però da alcuni temi che riguardano in questi giorni soprattutto centinaia di migliaia di italiani. La scuola, perché tra due giorni c'è il concorso, il concorsone anzi, come viene definito. Ebbene, La Stampa dedica una pagina a questo concorsone, pagina 16, precari scuola, uno su tre ce la farà, via il concorsone che vale la vita. La selezione è riservata a chi è già in possesso di un'abilitazione. L'80% dei candidati è donna, l'età media è di quasi 39 anni dei candidati. C'è anche l'intervista, un colloquio a un'insegnante precaria, Luciana Giordano, intervistata dalla Stampa. Dice: ci sottoporranno 8 domande, nelle risposte c'è il mio futuro, ho quasi 46 anni e vivo questa prova come un'ingiustizia. In ogni caso, ci sarà questo concorsone e La Stampa dedica una pagina a questo. Effettivamente gli esclusi rischiano di dover rinunciare una volta per tutte all'insegnamento. Uno su tre verrà, ce la farà, certo due su tre e quindi verranno esclusi. Ma a proposito di scuola, però, non è questo l'articolo che mi ha più colpito. L'articolo che mi ha più colpito sono le due pagine di Repubblica, Laura Montanari e Valeria Strambia, pagina 18-19, e riguardano i premi al merito. Sapete che nella riforma della buona scuola c'è anche il premi ai migliori docenti. Vai a capire quali sono i migliori. Come si giudicano i migliori docenti? Soldi ai prof più anziani, anzi no, ai più tecno? Il caos nelle scuole per i premi al merito. Questo è il titolo dell'inchiesta di Repubblica, che scrive: ogni scuola a modo suo, in piena autonomia, in ordine sparso tra mugugni e polemiche. Il bonus che premia il merito degli insegnanti, novità introdotta dalla buona scuola, definita una riforma culturale del ministro Giannini, eccolo qua. Ora ci siamo, fra proteste e ritardi, dall'infanzia alle superiori gli istituti si mettono in moto, cominciano a definire i criteri. Chi vorrebbe premiare il professore di lungo corso, quello che sta per andare in pensione? Eccolo lì, cioè non si capisce. Siccome sta andando in pensione è il migliore. Vabbè. Chi gli innovatori? Ecco, questo forse mi sembra un po' un criterio più equo. Quelli che portano i ragazzi a teatro la domenica, che insegnano con le lavagne digitali, fanno partecipare gli studenti a progetti internazionali. Chi preferirebbe invece assegnare il bonus a quelli che fanno lezioni supplementari di lingua italiana agli stranieri? Mi sembra che questo è un ottimo criterio. Organizzano iniziative per i ragazzi svantaggiati o genericamente danno un contributo al miglioramento della vita scolastica. In queste formule generiche c'è di tutto. Comunque il puzzle è variegato, ecco, ma in questo articolo mi ha colpito questa frase. Cioè, non c'è un metodo per stabilire un criterio oggettivamente scientifico. È chiaro che quando si fa una scelta ci sarà qualcuno che sarà contento, qualcuno che sarà scontento. Ma a un certo punto nell'articolo appare la linea della CGIL Scuola. La CGIL Scuola dice: stiamo raccogliendo le firme per un referendum. Tra i quattro punti, uno è proprio quello sui premi ai docenti. Ed eccola qui la proposta della CGIL Scuola. Gli incentivi vanno distribuiti a un tavolo con le rappresentanze sindacali unite, non certo a discrezione dei dirigenti d'istituto, spiega Anna Maria Santoro. Cioè i dirigenti di istituto, quelli che sono lì a dirigere un istituto e quindi magari hanno voce in capitolo, hanno titolo a stabilire dei criteri, ovviamente condivisi con altri. No, per il sindacato va tutto stabilito in un tavolo di concerto coi sindacati. Ma guarda un po'. L'Italia che cambia. Oh, va bene, invece se affrontiamo il tema divorzi, oggi ci sono due articoli anche qui che mi hanno colpito, a cominciare dai divorzi che coinvolgono sempre più gli animali, il cane. Come dicono gli avvocati matrimonialisti, ormai si litiga più per la divisione non fisica ovviamente, ma del tempo da dedicare al cane, al gatto, agli animali domestici invece che per la casa. I divorzi con il cane, il giudice stabilisce visite e alimenti. Alessio Ribaudo racconta, pagina 16 del Corriere della Sera, di come siano sempre più i casi di avvocati che decidono gli alimenti anche per gli animali e soprattutto i giorni in cui si possono vedere gli animali, perché il cane è mio, no, il cane è tuo, no, il cane lì vivrebbe male, quindi è meglio che non cambi casa, il gatto figurarsi. E vabbè, insomma, questo sul Corriere. Mentre sul Giorno c'è una sentenza che riguarda un matrimonio che è durato 90 giorni, quindi pochissimo, sposi per 90 giorni, poi il tradimento di lui che fugge con un'altra e tra l'altro dopo poco la mette incinta e ha un figlio. All'ex moglie comunque 600 euro al mese, state attenti, anche se il matrimonio è corto, cortissimo, è durato solo 90 giorni, racconta Valentina Reggiani sul Giorno a pagina 19 che i giudici hanno stabilito che essendo stato un legame lampo solo per 3 mesi, in primo grado la donna nulla possa pretendere. Ma la donna ha fatto ricorso in appello e ha spiegato che il sì pronunciato all'altare è durato 15 mesi e non 3. Insomma, non si decideva evidentemente lui, oppure il tempo di preparare il tutto. A onor del vero, poi il matrimonio è fallito perché l'ex coniuge ha preso altre strade. Risultato: la Cassazione, pur di fronte alle nozze lampo, dice il mantenimento resta un dovere, è durato 90 giorni e si cucca 600 euro al mese di mantenimento. Peraltro però il Giorno dice che lui guadagna 20.000 euro al mese. E quindi, insomma, dai, 600 euro al mese, anche perché l'amante incinta fu la causa della rottura. Insomma, dai, caccia sti 600 euro e avanti così. Ho una bella notizia, invece, ogni tanto quando le scopo ve le dico come mia missione personale, perché molti di voi la chiedono per iniziare la giornata in maniera più allegra. Ecco, vedete, il caso in cui il carcere può essere anche rieducativo. La Stampa racconta in prima pagina questa storia che viene dal carcere di Alessandria. È Miriam Massone che racconta tra i detenuti che coltivano la camomilla. Mancano solo le arance, forse per scaramanzia. In ogni caso, nella casa circondariale San Michele, Oltre 300 detenuti ad Alessandria, appena nata una fattoria ecologica con 350 alberi da frutto, un orto con le verdure e due estesi campi di camomilla. Sono 18.000 metri di terreno in tutto, una lunga striscia che costeggia i bastioni della casa circondariale, dove si coltiva con gli agenti penitenziari nelle torri che dall'alto controllano. Ebbene, il primo raccolto a maggio, soprattutto la camomilla dei detenuti di Alessandria, in Italia nessuno ne coltiva più di noi. Verranno messe in commercio il primo raccolto, pagina 17 della stampa racconta questo progetto sicuramente di inclusione, di recupero anche di questi carcerati che lavorano la terra e ora raccoglieranno i frutti della terra stessa. Ma a proposito di sentenze, dopo quella del divorzio ce n'è una da Modena, come racconta Libero a pagina 15, che vince nettamente il premio Mani sul volante, l'articolo che mi fa pinzare della giornata. Eccolo qui, cambia università, 28 anni, il giudice obbliga papà a pagare. Poi dicono bamboccioni, eterni bambini, viziati con in testa sogni di gloria che non raggiungeranno mai. Sentite qui la storia di Libero, un giovanotto che ha deciso di iscriversi a un corso di cinematografia sperimentale a Milano dopo aver finito gli studi triennali, la laurea, e il papà, che è separato e che paga il mantenimento agli studi, ha detto: oh, ha finito gli studi. No, papà, a 28 anni vorrei fare appunto un corso di cinematografia sperimentale a Milano. E il papà ha provato a dire al giudice che, insomma, sganciare la paghetta dopo la laurea, che lui è un po' diventato un adulto ormai, suo figlio, che non si è adoperato per trovarsi una condizione lavorativa che gli permetta autonomo sostentamento, ma sostenuto dalla ex moglie, la mamma del giovanotto di 28 anni, il giudice invece ha dato ragione dicendo: no, papà, devi pagare, continuare a pagare la paghetta a questo uomo di 28 anni. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta. Il migliore. Coltelli da prosciutto. Aggiustiamo gli ombrelli. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo questo il fumo della vostra cucina. Da gas. Sempre. Al 349-238-6666 le vostre sigle. Questo è un numero WhatsApp, è un numero anche per i messaggi scritti, quello che volete, ma funziona anche come WhatsApp. Allora, cari italiani, siamo pronti alla guerra in Libia? Guerra non si può dire, forse. Diciamo, siamo pronti ad andare in Libia? Ah, usiamo questa formula che da anni utilizzano tutti e che secondo me non significa nulla. Sotto l'egida dell'ONU, è una bella frase fatta. Comunque... non significa nulla, nel senso che è un modo di dire un po' bizzarro, l'egida dell'ONU. Allora, comunque, Pozzi, la Libia chiede aiuto al mondo, cosa succede? Roberto Bongiorni racconta a pagina 4 del Sole 24 Ore che la richiesta ufficiale è arrivata, con una nota scritta del Consiglio Presidenziale del nuovo governo libico di unità nazionale, cioè il governo di al-Sarraj, e hanno chiesto, parlando di probabili attacchi terroristici contro alcuni siti petroliferi, che la comunità internazionale aiuti. E allora il Consiglio di Presidenza ha invitato i paesi africani, ma e anche quelli europei vicini, dunque anche l'Italia, a rafforzare la cooperazione con le autorità libiche, intensificando i controlli alle frontiere. Entrando più nello specifico, la nota ha accennato all'esistenza di un coordinamento tra seguaci dell'ex regime, cioè i Gheddafiani, e gruppi ribelli africani come il gruppo Giustizia e Uguaglianza per attaccare installazioni petrolifere libiche. La Libia chiama e l'Italia risponde. Secondo il Corriere della Sera c'è già questo scenario, questo numero, 900 soldati italiani, sotto l'egida dell'ONU per carità, pronti a partire. Il piano studiato da Roma, pronti a mettere sul tavolo fino a 900 soldati. Marco Galluzzo lo racconta, pagina 3 del Corriere della Sera. Secondo gli ultimi piani operativi messi a punto dal nostro governo, un contingente militare da impiegare in Libia con funzioni di addestramento dell'esercito locale, protezione di siti sensibili, dovrebbe avere una dimensione numerica tra le 600 e le 900 unità. Sono previsioni, per carità. Tra l'altro, l'articolo, anche questo molto interessante, sui nostri rapporti con la Libia, lo scrive Marco Conti a pagina 3 del Messaggero. E riguarda non solo l'invio di soldati possibile, ma anche questa ipotesi. Vi ricordate i famosi, quelli che venivano chiamati respingimenti? Ora si parla così di riportare i migranti in Libia. Ebbene, Roma-Berlino, l'asse antisbarchi. Dopo l'invito del premier libico Sarraj di aiutare, ebbene, dopo questo passaggio necessario, cioè l'invio magari di soldati, secondo Sarraj la stabilizzazione sarà possibile e si potranno mettere nero su bianco le richieste che la Libia intende fare alla comunità internazionale, all'Europa e all'Italia. Tra queste ci sarebbe una riedizione dell'intesa italo-libica firmata a suo tempo da Berlusconi con Gheddafi, che permetta alle navi che pattugliano il Mediterraneo la riconsegna dei profughi sbarcati dalle coste agli stessi libici. Un'intesa simile a quella a suo tempo siglata dall'Italia con la Tunisia e l'Albania è uguale a quella voluta dalla Germania con la Turchia. Allora c'è questo all'orizzonte? Il ritorno dei cosiddetti, tra virgolette, respingimenti? Chi lo sa? Staremo a vedere. Intanto, riguardo all'immigrazione, vi segnalo che ovviamente ci sono riflessi e strascichi della vittoria al primo turno alle presidenziali del partito considerato di ultradestra in Austria, con Vienna che blinda i confini. Sapete che vogliono costruire una barriera temporanea, comunque sospendere Schengen al Brennero, al valico del Brennero. Sta di fatto che Libero oggi intervista Marine Le Pen. Sono due pagine di intervista, pagina 4 e 5, Matteo Pandini, che intervista la leader del Front National in Francia. Dice Marine Le Pen: costruire muri è un atto di libertà, così scapperemo dalla prigione Europa. Dice a Libero Marine Le Pen: non si tratta di costruire muri, ma riconquistare la nostra sovranità territoriale. Controllare i confini è vitale se vogliamo lottare efficacemente contro i massicci flussi di migranti. E ancora, accogliere i rifugiati, che sono nella stragrande maggioranza dei casi migranti economici, significa aprire le porte a una sommersione totale. Centinaia di migliaia di siriani, iracheni, somali, yemeniti vogliono entrare a tutti i costi nell'Unione Europea e unirsi ai paesi socialmente più interessanti. Parla anche della Brexit, la possibilità dunque che la Gran Bretagna esca dalla Unione Europea e questo lo definisce così Marine Le Pen: come tutti gli appassionati di democrazia, amanti della libertà, non posso che essere contenta di questo dibattito importantissimo, vitale, che coinvolge il Regno Unito a proposito della permanenza in questa unione che considero come una vera e propria prigione dei popoli. E infine, all'accusa di essere populista, risponde a Le Pen: se populista vuol dire essere vicino a lavoratori, pensionati, milioni di disoccupati, giovani altamente istruiti che non riescono ad andare avanti, famiglie asfissiate dal fisco, allora sì, sono populista. Così Marine Le Pen su Libero. Se invece affrontiamo il discorso Italia e il dibattito che affronteremo anche noi dalle 8.15 sul conflitto politica-magistratura, avremo ospiti Filippo Facci e Antonio Padellaro, beh, devo partire oggi dall'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, un editoriale che a me, Alessandro Milan, condivisibile dalla prima all'ultima parola. Ma Ernesto Galli della Loggia scrive e parla di corruzione. Dove nasce la nostra corruzione? Noi italiani. Sentite qui Galli della Loggia. Il dottor Davigo non si fa molta illusione sulla moralità dei politici. Personalmente me ne farei anche meno sulla moralità di coloro che li eleggono, sulla nostra. Del resto, come potrebbe essere altrimenti? Appena inizia ad aprirsi alla ragione, il giovane italiano va a scuola. E lì tutti cercano di copiare, senza che la cosa desti particolare riprovazione. chiunque vuole poi può maltrattare arredi, imbrattare di scritte di ogni tipo, in genere oscene, i bagni, scrivere e disegnare a suo piacere sui muri dell'edificio, anche in questo caso senza sanzione. Così come senza alcuna sanzione significativa resterà ogni atto di indisciplina. Se marinerà la scuola, se si metterà a compulsare il suo smartphone durante le lezioni, se manderà l'insegnante a quel paese. Imitato in quest'ultima attività anche dai genitori, i quali talvolta ameranno ricorrere anche a insulti, minacce, tutto coperto da una sostanziale impunità. Non basta. La scuola sarà per il nostro giovane concittadino un'ottima palestra di turpiloquio, bullismo sessista, di scambio di materiale pornografico, di spaccio di droga. Uscito dalle aule a luna per tornare a casa, l'adolescente italiano, se usa i trasporti pubblici, si eserciterà nel salto del tornello sulla metro o si guarderà bene se vorrà di pagare il biglietto. Ha imparato da tempo che in Italia pagare il biglietto sui mezzi pubblici è più che altro un'attività amatoriale, un hobby. Per farlo bisogna esserci portato. Ma naturalmente è più probabile che invece il nostro abbia un motorino e il più delle volte va da sé truccato. Insomma, un po' più veloce e molto più rumoroso del consentito. Dunque avanti nulla, come se fosse nulla. Un po' di studio nel pomeriggio, arriva finalmente la sera, al momento di svagarsi, specie se è sabato. Vorremmo mica vedere strade e botteghe deserte, spero. Dunque una birra, due birre, tre birre e poi un'altra ancora in discoteca. E del resto è la movida, no? E ottenuta senza troppa fatica una licenza, bisogna alla fine iscriversi all'università. Le tasse, è vero, sono un po' cresciute, ma scoprirà questo giovane che il suo papà e la sua mammina, accorsati commercianti, ottimi professionisti, funzionari di buon livello, possessori di un SUV e di un'utilitaria, di un bel appartamento, di una casetta al mare, un adeguato gruzzoletto, mamma e papà che ogni anno si fanno la settimana bianca, la loro vacanza da qualche parte nel mondo, scopre il nostro giovane, dicevo, che essi però al fisco risultano titolari di un reddito che consente a lui di avere una discreta riduzione delle tasse universitarie. Ecco, dopo tutto questo elenco della vita di un giovane tipo, scrive Della Loggia, Galli Della Loggia, la nostra corruzione nasce da qui, da questo rilasciamento di ogni freno, ogni misura che ha accompagnato il nostro divenire ricchi e moderni. Di questo dovrebbe occuparsi la fragile democrazia italiana, di questo dibattere i suoi politici che ancora sanno che cosa sia la politica, del mare di corruzione dal basso che insieme alla delinquenza organizzata minaccia di morte la Repubblica. Ernesto Galli Della Loggia sul Corriere della Sera. Ma è il momento quando uno si sveglia alle 5 e dice meno male che c'è Mauro Meazza, meno male che c'è il Milan, dai, meno male che c'è Brocchi. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno. Prima buongiorno. Che tu dica qualsiasi cosa, io devo dire, farti sentire un... Ti ricordi Angelino? La Volo? Sì, sì, certo. Angelino ieri si è rimanifestato. Senti qui. Ascoltiamo. Senti. Il sor Meazza ci delizia la mattina con le cose dette in rima, ma ci informa in lingua strana che la cosa rende arcana. Come famo noi a capire quella cosa che vuol dire? Ciao Meazza, che te mozzino via fuoco. Eccolo qua, Mauro, buongiorno. Posto che non ho compreso la frase finale, ecco, ma poi me la farai ascoltare. Che te possono piglia fuoco. Che, mi sembrava di aver colto il grido di battaglia di Angelino, anche a me lo fa Milan, che te possino piglia fuoco. È una specie di augurio, sì, diciamo, sì, esatto. di buon augurio. Vabbè, allora, sul Sole 24 Ore di oggi, cerchiamo allora di essere molto piani, di non parlare per endecasillabi. Sul Sole 24 Ore di oggi ti devo segnalare soprattutto il calcio. Perché anche in prima pagina parliamo dello scudetto, lo scudetto che sai che è stato assegnato. Sì. Ma ecco, non visto che il sole è il giornale dei numeri, quanti sono gli scudetti della Juve? Che questi bambini dell'asilo continuano a dire che sono 34, non crescono. Riferiamo questi bambini già dalla prima pagina, è il numero 32 secondo i dati ufficiali, perfetto. Il numero 34 per il club, poi non lo so perché c'è questa ostilità per l'aritmetica. In Italia veramente in 1 più 1 fa 3, va bene. In ogni caso parliamo anche dello scudetto che non è andato alle nostre squadre e non capiamo perché. Va bene, poi ricordati di passare in edicola a prendere i tuoi soldi, sì, non nel senso dei due eurini. E non al bar, va bene. No, nel senso del corso di educazione finanziaria che prosegue quest'oggi dedicata la puntata ai fondi comuni, quindi molto importante, sono uno strumento molto diffuso di investimento. Leggilo avidamente, mi raccomando. Segnati, hai il diario, prendi il diario. Eccolo qua. Ecco, preso. Segnati che domani, con il Sole 24 Ore, sì. Istanbul sul 7:30, che è precompilato, però tocca guardarci, non è che puoi prenderlo così a scatola chiusa. Allora, tra l'altro, guarda anche nelle pagine iniziali, questa volta del Sole 24 Ore di oggi, del Sole 24 Ore di oggi, perché ti spieghiamo come funzionano i rimborsi. I rimborsi che tu vai a chiedere nel 7:30, se superi o no i 4.000 euro, eccetera, eccetera. Te la faccio breve perché è spiegato tutto proprio nelle primissime pagine del Sole 24 Ore. E domani con il Sole 24 Ore, l'Istanbul. Poi domani sempre aspettiamo il famoso decreto banche, sai, quello che è un paio di settimane che gironzo, ecco. Vabbè. Dovrebbe arrivare domani, lo riferiamo sempre oggi. Ti è arrivata per caso, ti ha scritto l'INPS? No. Boeri? No, la busta arancione? Sono partite 150.000, lo scriviamo oggi, lo riferisce con Davide Colombo e arriveranno, ti faranno questo pronostico, chissà se segnalano anche quando nel 2070 ci sarà uno scudetto per anche a Milano, sì. Chi può dirlo? Vedremo quando la migliore arriva. È questa, quando arrivano a 40 gli assegnano anche una Champions League, così in omaggio. Ma dipende dal conto, però. A 40 vostro 2. Conto, vostro conto. Va bene, allora poi finisco rapidamente, ti voglio dire che nelle pagine di norme e tributi, oggi essendo martedì, troverai anche il condominio, si parla di rumori molesti, ho sentito che ieri ci sono stati dei festeggiamenti a Torino, se i tifosi di altre squadre volessero dare lettura appunto di questa pagina sul condominio, sui rumori molesti e anche dei nomi e cognomi dei morosi, però attenzione, parliamo anche di questo. Anche altre, mi raccomando, sempre tenendo aperto il diario, domenica 1 maggio, nuove regole europee per le dogane, te lo sei segnato? Sì, va bene, ecco, comunque ti spieghiamo tutto in norme e tributi. Infine ti voglio segnalare che vogliono potenziare la Verona Brenner, non ho capito se per evitare il rientro del l'ho letto su Imprese del Territorio sulle 24 ore, casualmente si parlava di Verona e quindi io te lo volevo segnalare con tanti sempre cari auguri per un bel finale di stagione. Ti ringrazio anche e soprattutto traffico. Alessandro Milan, la fatal Verona dell'informazione. Vabbè, dai. Allora, cari ascoltatori, le amministrative, ieri Libero ha tirato fuori nel passato della candidata del Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, Virginia Raggi, un aspetto che non si conosceva, e cioè ha rivelato che la Raggi tra il 2008 e il 2009 è stata presidente di una società, la HGR, operante nel settore recupero crediti, della quale era amministratrice delegata e proprietaria Gloria Rojo, come nome noto alle cronache perché finita nella cosiddetta parentopoli all'azienda municipale AMA. Ora Virginia Raggi ieri ha risposto, perché oggi i giornali tornano a dire Raggi nella società vicina ad Alemanno, lei però si difende, era solo un ruolo tecnico, ha detto: nello svolgimento del mio lavoro con lo studio San Marco, dell'avvocato San Marco, mi è stato chiesto di svolgere un ruolo tecnico e di rappresentanza per una società cliente dello studio, la HGR appunto, senza alcun compenso, una comune prassi professionale. Sono stata presidente di garanzia per HGR fin quando la società è rimasta cliente dello studio San Marco e una volta cessato il rapporto ho lasciato l'incarico. Però insomma, ecco che le polemiche ci sono sui giornali, il Corriere dedica mezza pagina, Repubblica, il Fatto Quotidiano per la verità, Previti e Panzironi omissis nel passato di Virginia Raggi, e anche il Messaggero, omissione nel curriculum per la Raggi, l'accusa del PD, lavorò con la destra. A proposito di destra però, ragazzi, continua lo psicodramma, no? Con Guido Bertolaso, che oggi rilascia un'intervista a Tommaso Labate sul Corriere della Sera, pagina 11, e sentite questa, l'ultima di Bertolaso è questa: ero pronto a rinunciare a fare un passo indietro, ma Forza Italia si è messa di traverso. Berlusconi ci pensava, Forza Italia però ha detto di no. Io gli ho detto: guarda, io non sono appiccicato alla sedia a tutti i costi, voglio solo il bene dei romani. Lui mi ha ascoltato, era pronto a valutare tutto, e poi si è di mezzo il suo partito. Si è messo di mezzo il suo partito, sostenendo a più voci che andare con Marchini avrebbe compromesso per sempre l'alleanza con Lega e Fratelli d'Italia. Cioè, insomma, Bertolaso recita per l'ennesima volta la parte di quello che lo fa controvoglia, e gli elettori romani chissà se lo voteranno controvoglia oppure no. Comunque, ero pronto a rinunciare per Marchini, è lui il candidato più simile a me, ma poi Forza Italia si è messa di traverso. Questa è l'ultima di Bertolaso. Oh, che dire, siamo quasi in chiusura. Sì, vi segnalo l'articolo di Fiorenza Sarzanini, pagina 10 del Corriere della Sera. Polizia, finanza, servizi segreti, attenzione, c'è una accelerazione sulle nomine. La partita è entrata nella fase finale, già venerdì il governo potrebbe arrivare a nominare i nuovi capi di forze armate, dell'intelligence, della guardia di finanza e della polizia. Sono partite molto importanti perché riguardano nomine strategiche per ovviamente il paese. Va bene, ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qui, è Simonetta Caminiti che oggi stravince sul Giornale con mezza pagina dedicata, che cosa, le bestioline, sempre ai nostri cucciolini, i nostri cagnolini, i nostri micini. Di mamma ce n'è una sola, ma spesso di un'altra specie. E di che cosa si parla in quest'articolo per mezza pagina? Ma si parla del senso materno tra gli animali, sviluppato come quello negli uomini, o meglio nelle donne. Gatte che adottano cagnolini, gorilla che allattano micetti, i cigni che fanno... Ma chi se ne frega!